Secondo Dan Brown, l'autore del Codice da Vinci, l'anello episcopale del massimo responsabile della Società della Santa Croce dell'Opus Dei, Javier Echevarria, nome da pelotaro basco, è in oro massiccio, costellato di ametiste e diamanti e con gli emblemi della mitra e del pastorale. Ma Vittorio Messori, nell'iniziarne l'intervista, fa subito notare che al dito del prelato sta un leggero cerchietto d'oro, si notino i diminutivi, un leggero cerchietto d'oro con un cammeo in corallo e una scontata Madonna con bambino, si noti la scontata come a suggerire che possa essere stata acquistata in saldo o che comunque di poca cosa si tratti, poca cosa che per l'appunto dovrebbe di per sé riversare sull'Opus Dei e sui suoi protagonisti tutta quella luce positiva che la storia, quella vera e quella dichiaratamente inventata nel romanzo, è riuscita ad occultare in un mare di tenebre negative. Il pastorale di cui favoleggia o non favoleggia Dan Brown è un bastone ricurvo all'estremità superiore, ormai da tempo divenuto simbolo dell'autorità del vescovo. Un bastone il cui buon uso sarebbe riservato al pastore. L'idea di affidare un valore salvifico al pastore viene direttamente dal Vangelo di Giovanni, laddove fa raccontare a Gesù la cosiddetta parabola del buon pastore, che non è poi così chiara come la si vorrebbe far passare. In verità io vi dico, comincia Gesù, che chi non entra dalla porta nell'ovile è un ladrone. Chi entra dalla porta è il pastore, le pecore lo conoscono, lui conosce le sue pecore, addirittura le chiama per nome. Poi lui si incammina e le pecore lo seguono, mentre col cavolo che seguirebbero lo straniero. A questo punto Gesù ha già finito, guarda i suoi discepoli e quelli hanno una faccia che la dice lunga, non hanno capito niente. E Gesù, sbuffando, ci riprova, complicandolo ulteriormente. In verità, io vi dico che lui è la porta dell'ovile e se qualcuno entra attraverso questa porta sarà salvato, mentre tutti quelli che sono arrivati prima di lui, che evidentemente da questa porta non sono entrati, erano ladri e assassini. Si dimentica di dire che non è che quelli che siano venuti dopo siano meno ladri e meno assassini, ma in compenso spinge un po' di più la metafora e dice che oltre che porta attraverso cui passare, lui è anche il buon pastore medesimo. Invita infine a diffidare dei mercenari e cripticamente comunica altresì di essere un pastore benestante e occupatissimo, perché di ovile ne ha anche un altro e prima o poi ne farà un tutt'uno. Che lì abbia perso dei voti è ovvio. Numerosi presenti si sono convinti che dei sei numeri se ne sono andati borbottando. Al candidato, non conviene prospettare dei prossimi consociativismi. Da quando ero bambino, andando qualche volta allo stadio e più tardi di fronte alla televisione, non ho mai avuto la sensazione che nel gioco del calcio vincessero sempre i migliori. E se i migliori spesso non vincono, mi sono sempre detto, qualche motivo ci sarà. Qualcuno avrà provveduto. Non mi ha stupito granché dunque la caterva di intercettazioni telefoniche che, confermando questa mia antica convinzione, in questi giorni ha messo in imbarazzo qualche potente fino ad ora ben circoscritto al mondo sportivo. Mi ha stupito non poco, tuttavia, un articolo, diciamo così, di contorno morale con cui la Gazzetta dello Sport ha accompagnato il ritmo serrato degli eventi scandalosi. In questo articolo veniva ricordata un'intervista rilasciata dall'Apoel Khan, allorquando era ancora designato devozionalmente, no, come nipote prediletto dell'avvocato e non eufemisticamente nell'odierna problematica versione di un uomo in cerca di se stesso. L'avevano fatto parlare della triade di dirigenziale cui era affidata la vincentissima Juventus e lui aveva risposto: quei tre mi ricordano Caino e Babele. Ora, a parte gli interrogativi sui processi formativi cui il giovane Lapo è stato sottoposto, stupisce non poco, ma testimonia altresì di un quadro ideologico che include una realtà ben più vasta di quella rappresentata nel singolo caso, stupisce non poco che a fronte delle nefandezze attribuite all'autorità consacrata, il prototipo dello stigmatizzato venga riciclato come maître à penser, come se avesse preso piede la sensazione che il potere, con la sua esigenza chirurgica di successo economico, con la sua logica fredda, con la sua spietata programmazione, possa essere, non dico rovesciato, ma almeno sbeffeggiato nei limiti in cui, agonizzando i suoi interpreti del momento e non rischiando alcunché ben inteso, portando in trionfo le sue vittime più illustri. A prescindere dal fatto che poi, mandate per qualche giorno nella lavanderia della storia ripulite degli schizzi di fango, queste vittime siano pronte a sostituire i caduti ed a ripercorrerne le gesta, superandole, se possibile, in nefandezze. Il fatto che di qualcosa debba pur vivere getta sulla metafora del buon pastore un'ombra di inquietudine, almeno dal punto di vista delle pecore. Come il fatto che comunque dell'oro stia al dito del prelato dell'Opus Dei o che la storia dell'Opus Dei non sia affatto edificante, anche se il Codice da Vinci non fosse né mai stato scritto né fosse mai stato ridotto a film, getta sull'istituzione per l'appunto un'ombra di inquietudine, almeno dal punto di vista di chi pecora non è. Ma anche qui è sintomatica del modo con cui vengono attivati i processi di valorizzazione sociale e delle tecniche di ribaltamento del loro segno la ferma convinzione di Javier Echevarría relativa alle conseguenze dell'opera di Dan Brown, romanzo o film che sia. Più che a radere al suolo l'istituzione, è sua convinzione che servirà a rafforzarla. E già oggi il giro degli amici e degli estimatori dell'Opus Dei, a sue parole, può considerarsi notevolmente allargatosi. Fin dal nome, Lapo deriva dall'ebraico Yahakob, colui che segue, metaforicamente che segue il buon pastore. Fin dal nome è un nitido esemplare di pecorella cui, se non è proprio smarrita, occorre dare una mano perché torni all'ovile. Ora, che la triade siano tre e che Caino e Babele siano due può essere fonte di preoccupazione. Non tanto che Babele abbia preso il posto di Abele, che presumibilmente sia trattato di un lapsus strafreudiano, volendo, ma lapsus. Noè, d'altronde, ebbe tre figli, Sem, Cam e Jafet, e furono questi tre figli effettivamente a incappare in quel brutto giro di tangenti relativo alla grande opera della Torre di Babele. E non a caso, in quei frangenti ci fu chi, molto in alto, provvide a rendere difficili le intercettazioni telefoniche.